La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato all'epopea di due dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, Fausto Coppi e Gino Bartali. Ospite ai nostri microfoni Stefano Pivato, docente di storia contemporanea all'Università Carlo Bo di Urbino e curatore del volume In bicicletta, Memorie sull'Italia e due ruote, edito da Il Mulino. Nell'Italia del secondo dopoguerra, che cercava a fatica un riscatto dopo la tragedia del conflitto mondiale, in cui era quasi obbligato stare da una parte o dall'altra, o con Stalin o con Truman, con gli Stati Uniti o con l'Unione Sovietica, con Peppone o con Don Camillo, anche lo sport ebbe un ruolo tutt'altro che secondario nel cementare la coesione nazionale, pur tra contrasti e divisioni. È l'epopea di Fausto Coppi e Gino Bartali, in cui il ciclismo diviene il simbolo dell'orgoglio nazionale e assume una forte valenza politica e sociale. Bartali, il magnifico atleta cristiano, indicato da Pio XII come modello da imitare, diviene il campione delle folle cattoliche democristiane. Coppi, suo malgrado, viene osannato da socialisti e comunisti. Le vicende dei due campioni dell'Italia della ricostruzione e più in generale il ruolo che ha avuto la bicicletta nello sviluppo sociale ed economico del nostro paese nel secolo scorso ci vengono ora riproposte in un libro del Mulino dal titolo In bicicletta, Memorie sull'Italia a due ruote, a cui cura di Stefano Pivato, Loretta Veri e Natalia Cangi. L'Italia moderata e democristiana celebra Bartali, salvatore della patria, il 14 luglio del 1948, quando il ciclista toscano, a poche ore dall'attentato a Togliatti, vince una memorabile tappa del Tour de France. E certo la vittoria contribuisce a non esasperare ulteriormente gli animi in un momento di grave tensione politica, in cui il paese rischia di trovarsi sull'orlo della guerra civile. Le piazze si infiammano, da qualche parte rispuntano le armi dei partigiani, ma dalla Francia, attraverso la radio, arriva la notizia che Bartali è maglia gialla. Il ciclismo e i suoi eroi divengono nell'immaginario collettivo testimoni di un'epoca politica e dei suoi valori, in un'Italia che con le elezioni del 18 aprile 1948 aveva scelto di stare dalla parte delle forze moderate, respingendo quello che venne definito il pericolo rosso. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Certo non fu solo la vittoria di Bartali a evitare la rivoluzione, determinante fu l'atteggiamento del sindacato e delle stesse forze di sinistra che si schierarono in difesa dei valori democratici propri della neonata Repubblica. Era stato lo stesso presidente del Consiglio Alcide De Gasperi a chiamare al telefono Bartali in Francia per incitarlo alla vittoria e anche il Papa inviò la sua benedizione. A 34 anni, 10 anni dopo la sua ultima vittoria al Tour de France, Bartali stupisce tutti sbaragliando il suo avversario, il francese Louis Bobet, detto Louison. Prosegue la sfida a distanza con Coppi. Questo è il sonoro di una notissima puntata del Musichiere con i due rivali amici impegnati in un divertente duetto canoro. Ed io ripenso a quel tempo lontano, le nostre lotte sui monti e sul piano e sulle Alpi coperte di nevi. Come perdevi, come perdevi. Abbiamo in linea il professor Stefano Pivato, che è docente di storia contemporanea e rettore all'Università Carlo Bo di Urbino. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Lei è un grande esperto di bicicletta, ha scritto vari libri. Ne ricordo uno, si è lodato Bartali, ideologia, cultura e miti dello sport cattolico, edizioni Lavoro, oltre appunto aver curato il libro In bicicletta, Memorie sull'Italia a due ruote, a cura appunto di Pivato, Loretta Veri e Natalia Cangi. Professore, torniamo a parlare del secondo dopoguerra. Noi in particolare ci siamo soffermati sulla rivalità tra Fausto Coppi e Gino Bartali e sul ruolo che in qualche modo ebbe la vittoria di Bartali al famoso Tour de France del 1948 nell'evitare che, come dire, i sussulti e i grandi contrasti che seguirono all'attentato a Togliatti degenerassero in una sorta di rivoluzione. C'è stata una particolare enfasi nel, come dire, celebrare il ruolo di Bartali o è fondato dal punto di vista storico? Beh, forse sì, c'è stata una particolare enfasi dovuta anche al fatto che Bartali era un campione dichiaratamente democristiano, dovuto al fatto che Bartali era stato indicato da Pio XII, cosa peraltro stranissima perché mai nessuna persona viene citata nei discorsi pontifici. C'era un po' di fastidio da parte della sinistra, diciamo così, per tutta questa enfasi, forse anche un po' caricaturale appunto su Bartali. Io credo che in realtà sì, abbia contribuito la vittoria di Bartali al Tour a sedare gli animi, non abbia contribuito, come scrissero allora, a sdrammatizzare la rivoluzione a colpi di pedale, cito il testo appunto di un articolo, ma a rasserenare gli animi senz'altro. Ma che ruolo ha avuto, professore, la bicicletta nel corso della storia del Novecento? Cominciamo questo nostro viaggio, come dire, ideale a due ruote dai primi anni del secolo scorso. Ha avuto un ruolo importante anche nel accompagnare lo sviluppo del nostro paese? Sicuramente. E oggi può sembrare démodé parlare di bicicletta, ma all'inizio, fine 800, inizio 900, la bicicletta era la macchina, era per la prima volta un uomo poteva superare addirittura l'animale che per anni lo aveva accompagnato nelle sue scorribande, cioè il cavallo, erano le gambe dell'uomo che muovevano i pedali, era una macchina che oltretutto spaventava, era la modernità, ecco. Teniamo presente che la bicicletta nasce in quanto tale all'Esposizione Universale di Parigi del 1889, che per intenderci è l'esposizione che vede inaugurare la Tour Eiffel, e da lì questo percorso appunto che arriva anche in Italia, e questa incredibile modernità che la bicicletta evoca in chi la vede per la prima volta, in chi percorre per la prima volta le strade dell'Italia. Il Giro d'Italia, teniamo presente che è del 1909, ma le prime corse si svolgono alla fine dell'Ottocento. Ecco, evoca questa idea di grande modernità la bicicletta. Teniamo presente che le automobili inizio Novecento sono uno strumento ancora molto ma molto elitario, se ne vedono poche, e la bicicletta suscita questa idea, evoca questa idea di grande modernità. Professore, ecco, l'Italia è accompagnata nel suo sviluppo da questo importante veicolo, possiamo chiamarlo, che a un certo punto, anche diciamo durante il ventennio fascista, noi abbiamo presente anche molti film in cui lo sviluppo del nostro paese viene raffigurato anche attraverso l'uso della bicicletta. Si arriva al ventennio e poi subito dopo al dopoguerra. In che modo cambia anche l'utilizzo di questo mezzo nel passaggio, diciamo, dal ventennio fascista alla Repubblica? Ma guardi, diciamo che fino al boom economico, fino alla motorizzazione di massa, fino alla nascita della 500, della 600 prima, della 500 poi, la bicicletta ha sempre questo grande ruolo di strumento. Beh, pensiamo a un film evocativo, ad esempio, come Ladri di biciclette, siamo negli anni immediatamente seguenti il secondo conflitto bellico. Teniamo presente anche una cosa, che la bicicletta, se all'inizio del Novecento è uno strumento un po' stravagante, anche un po' costoso, a partire dagli anni 20-30 si popolarizza, diventa uno strumento alla portata delle tasche, non dirò degli operai, ma degli impiegati. Gli impiegati, questo succede appunto nel secondo dopoguerra. Teniamo presente che le strade migliorano, quindi si può percorrere parecchia strada appunto con la bicicletta, e quindi almeno fino agli anni del boom economico evoca questa idea appunto di modernità. La macchina, torno a ripetere, fino alla 500, fino alla 600 non è ancora uno strumento intanto carissimo. Quindi la bicicletta diciamo che per i primi sei decenni del Novecento conserva ancora tutto questo fascino, evoca un'idea di velocità, per la prima volta evoca l'idea di velocità prima che l'automobile prenda il sopravvento. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzazz, zazzazzazz, zazzazzazz.